9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qui in studio per parlarvi di questa novità. Una novità non tanto teorica di cui si parla nel dibattito da anni, no, parliamo di una novità concreta questa volta, perché il comune di Parma, un'amministrazione guidata dal sindaco Piero Vignali, ha deciso che il dibattito che da tanti anni è affrontato sull'opportunità o meno di introdurre nel nostro paese il cosiddetto quoziente familiare, vedremo innanzitutto di che si tratta, era un dibattito da superare, bisogna passare ai fatti, e quindi ha iniziato a introdurlo come coefficiente per parametrare il punteggio per l'accesso ai servizi nella città di Parma, appunto. Io, prima di presentarvi gli ospiti, di chiedervi che cosa pensate chiamando l'800240024, ho l'obbligo naturalmente di ricordare anche a chi non è addetto ai lavori, a chi non è molto esperto di questione fiscale, che cos'è il quoziente familiare, perché altrimenti si rischia sempre di non capire bene di che cosa stiamo parlando. Alcuni criticano, devo dire, questa mia mania di introdurre trasmissioni con un paio di minuti di parlato in cui introduco un pochino l'ordine del giorno, però io penso che bisogna sempre parlare a tutti coloro che magari non hanno ben preciso significato tecnico delle parole che usiamo e dei punti su cui si dibatte. Molto spesso in Italia io penso che la confusione dei dibattiti e dei punti di vista dipende dal fatto che non è molto chiaro l'argomento di cui si tratta. Allora, che cos'è il quoziente familiare, invocato da anni per una svolta del fisco italiano più a favore delle famiglie? Il fisco italiano è, come vedremo da alcune cifre, nei paesi europei quello più ostile alla famiglia, e questo spiega anche perché nel nostro paese il tasso di sostituzione delle famiglie, cioè il numero basso di figli per donna media adulta, dipenda da questi disincentivi, di cui quello fiscale è quello più elevato. Allora, nel nostro paese come si pagano le tasse? Secondo la riforma del 74 bisognava pagarle utilizzando come criterio della capacità contributiva, come ambito espressivo della capacità contributiva, la famiglia. Se non che nel 1976 la Corte Costituzionale, con una famosissima sentenza che da allora ha cambiato l'ordinamento italiano, ha detto no, neanche per idea. La base in cui si esprime la capacità contributiva è solo quella individuale, perché altrimenti con il cumulo dei redditi, che era il regime introdotto, il cumulo dei redditi si nega l'eguaglianza, perché ovviamente significa penalizzare il reddito, il comportamento fiscale nei confronti del reddito più basso tra i due coniugi, classicamente quello della donna, che viene poi, sommandosi a quello del coniuge magari più elevato, soggetto a un'aliquota media per la somma dei due, e quindi significa disincentivarlo e penalizzarlo. Si pagano le tasse così in tutti i paesi del mondo? No, assolutamente. Il nostro paese, che grazie a questa sentenza della Corte, molto individualista su base egualitaria, il nostro fisco è un fisco che è su base individuale per ragioni di egualità, di eguaglianza, voglio dire, scusatemi, quindi è ispirato a un orientamento sociale molto di sinistra e però molto individuale da questo punto di vista, però è un'anomalia rispetto a moltissimi grandi paesi del mondo. In Germania e negli Stati Uniti i contribuenti possono decidere di scegliere un regime individuale o lo splitting familiare, forme di cumulo più o meno tarate per diminuire questo effetto disincentivante per il reddito del coniuge minore. Poi la Francia è quella che fa testo per la cosa di cui parliamo oggi, il quoziente familiare. Che cosa significa? Significa che l'ambito nel quale si esprime la capacità contributiva, quella a cui poi si applica la progressività anche nel nostro ordinamento secondo l'articolo 53, è appunto la famiglia, e nell'ambito della famiglia si sommano i redditi dei diversi coniugi più i figli presenti, a seconda del numero dei figli e della fascia di reddito a cui si appartiene per somma del reddito dei coniugi, i figli, a seconda che siano uno, due o tre, hanno diversi coefficienti. E naturalmente questo sistema incoraggia molto la numerosità delle famiglie. Vi faccio questo esempio. Io calcolai due anni fa, nel 2007, quindi queste cifre sono preesistenti rispetto ai bonus delle finanziarie degli due anni poi successivi, questa era l'estate del 2007 quando ci eravamo fatti questi conti, e provammo a vedere qual era l'effetto oggi su una famiglia che avesse 25.000 euro di reddito e su una di 50.000 euro di reddito, quante tasse si finivano per pagare in Italia, Francia e Germania. Ecco, pensate che in una famiglia di quattro persone, quindi un coniuge e due figli poi a carico, e con un unico reddito, entro i 25.000 euro l'anno, il regime del quoziente familiare francese faceva pagare 52, avete capito bene, 52 euro di tasse. In Italia la stessa famiglia di IRPEF pagava 1725 euro di tasse, in Germania solo 700 euro di tasse, grazie al sistema dello splitting. E man mano che poi la fascia di reddito sale, la differenza diventa ancora poi più evidente, perché entro i 50.000, sempre con quattro componenti, con un solo reddito, a quel punto in Francia si pagava 2.500 euro, in Germania 7.200 euro, in Italia pensate 13.000 euro. 13.000 euro rispetto a 2.500 francesi. Questa è una delle componenti per le quali la demografia nel nostro paese ha iniziato ad andare come è andata dal 76, cioè da quella sentenza della Corte Costituzionale in avanti. Da allora molte volte si parla dell'impegno di dell'introduzione del quoziente familiare o di forme analoghe al quoziente familiare, perché a seconda dei coefficienti capite che se ne cambia e se ne gradua la propensione favorevole, ovviamente, alla numerosità delle famiglie. È un impegno di volta in volta assunto anche in questa legislatura, all'inizio della legislatura assunto da Silvio Berlusconi, però quando si tratta poi di iniziare ad attuarlo c'è sempre qualcuno che dice due ordini di cose. Primo, che è molto caro. L'ISAE ha stimato in alcune audizioni che una forma light potrebbe costare 4-5 miliardi di euro, una forma intermedia fino a 7-8, applicarla integralmente alla francese potrebbe arrivare da 16 a 18 miliardi di euro di minor gettito, naturalmente. Seconda obiezione, molto animata dalla sinistra, è invece che questo quoziente familiare ha degli effetti negativissimi. Gli economisti della Voce.info da una parte, Vincenzo Visco in persona alcuni anni fa dall'altra, sostengono due cose: che l'adozione del quoziente familiare, appunto, scoraggia di nuovo il reddito più basso della famiglia e lo disincentiva al lavoro, cioè porterebbe le donne a lavorare meno, argomento sostenuto anche da Pietro Ichino in numerosi interventi. Secondo argomento, oltre a scoraggiare, a disincentivare l'occupazione femminile, incoraggerebbe soprattutto le famiglie più ricche. Vincenzo Visco, in un famoso discorso che fece vibrare di sdegno centristi e cattolici italiani, disse che nel quoziente familiare il centrodestra vuole premiare le famiglie in cui c'è un riccone con la moglie che non fa nulla, va in palestra e, sommando i coefficienti e con un po' di figli adottati, non si pagano le tasse. Furono le sue testuali parole. Ecco, fine della mia introduzione, passiamo a vedere con gli ospiti innanzitutto come e perché viene attuata a Parma e qual è la filosofia di fondo, quali saranno i risultati, e poi guardiamo naturalmente il dibattito sul quoziente a livello nazionale. Vi presento i nostri ospiti, abbiamo innanzitutto Pietro Vignali, sindaco di Parma, buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha la delega alla famiglia nell'ambito dell'attuazione del programma di governo, buongiorno Giovanardi. Buongiorno. E il professor Luigi Campiglio, che è prorettore. Buongiorno. Ecco, buongiorno professore. Iniziamo dal sindaco di Parma. Allora, signor sindaco, avete deciso di passare ai fatti? Sì, noi stiamo ragionando già da tempo anche con il sottosegretario su come poter valorizzare la famiglia anche nell'erogazione dei servizi alla persona, perché il quoziente familiare a cui noi siamo arrivati rientra in un percorso strategico ben più complesso. Noi abbiamo costituito 2 anni fa un'agenzia per la famiglia, ci rendiamo conto che oggi i comuni si trovano in una situazione di dover rispondere a una domanda di servizi che è crescente. A Parma ormai i servizi alla persona ha raggiunto la cifra di 120 milioni di euro all'anno, quindi una domanda di servizi crescente sia dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto le nuove dinamiche della società richiedono anche una richiesta di servizi qualitativamente diversa, più personalizzata, più flessibile, servizi che il pubblico in generale fa fatica a garantire in questo senso, perché di solito il pubblico eroga servizi che sono più standardizzati, e quindi da lì ci siamo detti: o noi riusciamo a mettere la famiglia al centro dei servizi alla persona, quindi fare in modo che questi servizi vengano erogati direttamente alla famiglia, quindi la famiglia che si prende a carico dell'anziano, la famiglia che si prende a carico dei figli, o diversamente è un sistema che va alla saturazione. Primo, perché la domanda continuerà a crescere, perché abbiamo società dove ci sono sempre più anziani, sempre meno giovani, più immigrati, e quindi andremo alla saturazione, perché da una parte i comuni avranno sempre meno risorse e dall'altra la domanda dei servizi cresce, ma soprattutto, come dicevo prima, abbiamo di fronte dei bisogni che sono sempre più flessibili e sempre più chiedono sempre una maggiore personalizzazione. Allora da lì noi abbiamo cercato di andare in questa direzione, che poi è la direzione anche della sussidiarietà, cioè sostenere la famiglia, qui non vedere la famiglia come un soggetto debole da aiutare, ma la famiglia come un soggetto attivo da sostenere, in modo da dargli le risorse per poter erogare lei stessa questi servizi. Noi ieri a Parma abbiamo iniziato anche le Tagesmutter, anche questa è un'altra cosa di cui ne avevamo parlato ed era stata avviata proprio con un ragionamento con il sottosegretario Giovanardi insieme con un suo gruppo di lavoro, cioè cercare anche lì le mamme di giorno, invece di continuare a costruire degli asili che poi hanno un costo e poi non si riesce anche lì a garantire quella flessibilità, cerchiamo di fare in modo che ci sia la stessa mamma a tenere i suoi figli, anche i figli degli altri, in un concetto in cui dare la possibilità anche in un concetto di conciliazione, cioè alle donne di poter sia curare la famiglia e sia andare a lavorare. Ecco, in questo senso siamo arrivati al quoziente familiare sulla base del principio che è inutile che lo Stato, il Comune prelevi le risorse per poi dare alla famiglia dopo aver fatto tutto il passaggio burocratico degli enti, e soprattutto perché il coefficiente e il sistema ISE, che è quello che viene utilizzato oggi dai comuni, è un sistema che non tiene conto del numero dei componenti della famiglia, anzi in alcuni casi, come dicevate voi prima, viene penalizzato. Esatto, così sì. Come la fiscalità nazionale. Ora, un anno fa ci fu una raccolta di firme per un fisco a misura di famiglia, un fisco che necessariamente secondo noi deve tener conto del numero dei componenti della famiglia, e non è neanche vero quello che si diceva prima, cioè che qualcuno della sinistra sostiene che poi alla fine si vanno a sostenere le famiglie dei ricchi, perché poi il quoziente, per esempio, che abbiamo costruito noi con l'Università di Parma, ci lavoriamo da mesi, tiene conto anche evidentemente del reddito della famiglia, è un quoziente che va a correggere il sistema ISE, che tiene conto naturalmente di quello che è il reddito dei componenti, ma però tiene conto, e quindi ecco qua il correttivo, tiene conto del numero componenti della famiglia, quindi man mano che aumenta il numero dei componenti della famiglia si riduce la tariffa da pagare per l'accesso ai servizi educativi. In più il quoziente tiene conto anche di altri fattori, come la presenza di bambini disabili, dei carichi di cura di cui si fa carico la famiglia, e io credo che questa è l'unica strada che noi abbiamo in prospettiva anche a livello nazionale, per evitare invece di andare verso una società dove avremo una denatalità che ormai è davanti agli occhi di tutti e che invece bisogna cercare di stimolare, incentivare con un fisco diverso, insomma, che tenga conto, come dicevo prima, del numero dei componenti della famiglia, quindi favorendo, come hanno fatto esattamente in Francia, invece la natalità. Professor Campiglio, ci aiuta a capire un po' questa contraddizione di questo orientamento progressista del fisco, della giurisprudenza fiscale italiana, che pur avendo nell'attuazione dei principi costituzionali che riguardano il fisco, lo ricordo a tutti, la riserva di legge, l'articolo 23 della Costituzione, poi l'articolo 53 che è quello che ispira la progressività del sistema, cioè che tutti siano chiamati in ragione della propria capacità contributiva a contribuire alle imposte, però questi principi che sono stati attuati poi appunto in maniera evolutiva nel nostro ordinamento, poi sono stati attuati avendo come criterio, diciamo, guardando a un'ispirazione più di sinistra che no, con un criterio, quello della rigorosa scelta della individualista, della capacità contributiva invece che della famiglia, che dovrebbe essere un criterio paradossalmente che fa a pugni con l'ispirazione prevalente invece della giurisprudenza e del diritto italiano in questa stessa materia. Cioè si è voluto fare un fisco progressivo adottando un criterio esclusivamente individualista. Io trovo una contraddizione che solo in Italia avviene, non sono mai riuscito a capire come mai. Prima di addentrarci nelle obiezioni tecniche che fanno coloro che non vogliono il quoziente familiare, ci aiuta a capire come mai è avvenuta questa contraddizione nel nostro paese? A mio parere ha delle radici storiche. In un bel volume di pochi anni fa sulla divaricazione tra Francia e Gran Bretagna dei sistemi di welfare veniva sottolineato qualcosa che probabilmente in parte accade anche da noi, cioè c'era in Gran Bretagna l'idea di una famiglia con un solo percettore che si prendeva carico di tutto, e a quel punto l'individuo e la famiglia per definizione coincidevano, mentre i francesi hanno certamente anticipato ciò che sarebbe poi venuto e hanno preso come riferimento quello che poi è il buon senso di tutti, cioè il centro decisionale di spesa è la famiglia e quindi fa una differenza dal punto di vista della capacità contributiva e quindi anche della nostra Costituzione se 45.000 euro di reddito, per capirsi, sono riferiti a una sola persona oppure a due adulti e due bambini. Certamente nel caso nostro non ha giovato il fatto che diciamo questi meccanismi venissero ricondotti a campagne sulla famiglia legate a un mondo passato, agli anni 30, a cose di questo genere. Ora, credo che ci sia una sorta di retaggio storico. Noi, anziché guardare al futuro, guardiamo come nella mitologia, con la testa rivolta al passato. Questo è di partenza e fondamentalmente quindi è un ragionamento che porta più dal lato della ideologia che dal lato della ragione pratica. E quindi mi pare di capire che siccome la natalità era uno dei punti forti del regime fascista, abbiamo adottato un fisco ostile alla famiglia per non ricaderci, col bel risultato che naturalmente si impoveriscono le famiglie italiane. Mi sembra il trionfo di un ragionamento paradossale. Eccoci tornati in studio, ci occupiamo oggi del quoziente familiare, abbiamo spiegato in cosa consiste, quali sono i suoi effetti, come diversamente avvantaggi le famiglie laddove, soprattutto in Francia e Sudan, costituisce l'orientamento dell'approccio del fisco per identificare la capacità contributiva basata sulla famiglia, sulla numerosità dei figli, che pesa con un quoziente progressivamente diverso a seconda della numerosità e quindi rende meno gravoso l'effetto complessivo di dover compartecipare a costi più elevati o famiglie più numerose con redditi sui quali invece, gravando solo un'aliquota individuale come nel nostro caso, l'effetto di scoraggiamento della numerosità della famiglia si vede nei numeri poi della società italiana. Abbiamo parlato dell'esempio di Parma, con il sindaco di Parma che ha cominciato concretamente, dopo aver pesato bene questo nuovo coefficiente, averlo introdotto come criterio per valutare le scale di priorità per l'estensione ai servizi pubblici offerti dalla città. Ora occupiamoci anche dell'aspetto nazionale. Abbiamo Carlo Giovanardi con noi collegato, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega alla famiglia, e sono obbligato a chiederle, onorevole Giovanardi, quando e se a livello nazionale si creerà la compatibilità di bilancio per vedere i primi effetti, i primi passi concreti a livello nazionale dell'attuazione del quoziente. So senza che lei ce lo ricordi, che il governo attuale ha già fatto per la famiglia con i pacchetti di fine anno, con le finanziarie e così via, ma per il quoziente? Per il quoziente ho scritto a Berlusconi, al Presidente, circa un mese e mezzo fa, ricordandogli l'impegno, mi ha risposto per iscritto confermando l'impegno di arrivare in corso di legislatura al quoziente familiare, ma aggiungendo una cosa per me importante, e cioè che ogni provvedimento che verrà preso anche parziale, come quello del bonus famiglia dell'anno scorso, verrà parametrato tenendo conto del fatto dell'esistenza di figli nella famiglia, quindi come stanno facendo a Parma per quanto riguarda le tariffe, incominciando ad applicare questo principio che è nella Costituzione, perché io non so la Corte Costituzionale che cosa legga, ma l'articolo 31 della Costituzione recita: la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Questo dice la Costituzione della Repubblica Italiana. E l'articolo 37, le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare alla donna e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Quindi, da una parte, il riconoscimento che la famiglia con figli ha diritto da parte dello Stato a un trattamento particolare, dall'altro che bisogna accentuare i tempi di conciliazione fra il lavoro della donna e la cura familiare, perché la nostra prospettiva, che ne dica Visco, è da incubo: denatalità, l'ultimo posto al mondo per nascite, un invecchiamento della popolazione che non ha uguali e precedenti in nessun paese del mondo, e un fenomeno migratorio talmente massiccio, provvidenziale per certi aspetti, ma che se va avanti così comporta che fra 20 anni in Italia saranno meno gli italiani di quanti verranno da 150 paesi diversi dal mondo, con tutto quello che comporta in termini di difficoltà di integrazione. Quindi assolutamente sì, muoversi in questa direzione. Devo dire però che è essenziale l'apporto del sistema regionale, provinciale e comunale, perché il sindaco di Parma, mi congratulo con lui, 120 milioni di lire all'anno di spesa sociale. Tenga conto che il Dipartimento Nazionale per le Tossicodipendenze per tutta Italia ha a disposizione 12 milioni di euro. Per gli asili nido noi distribuiamo 100 milioni di euro come Dipartimento Famiglia alle 20 regioni italiane, e mi sembra che, se non ricordo male, Parma abbia investito, solo il Comune di Parma l'anno scorso, 16 milioni di euro per la costruzione di nuovi asili nido, perché con la nuova Costituzione gran parte, anzi diciamo quasi tutta la spesa sociale e sanitaria sono stati trasferiti come competenze e anche come finanziamento agli enti locali. Quindi lo Stato dovrà farsi carico di ristrutturare la fiscalità generale, ma è fondamentale che poi il sistema delle autonomie si muova in una direzione che è quella di Parma, e cioè di tener conto, per quanto riguarda tutti i servizi, di questo obiettivo fondamentale per il nostro Paese di incrementare, di aiutare, di agevolare coloro che mettono al mondo dei figli, che sono il più grande patrimonio sociale del Paese per il futuro. Ecco, abbiamo collegato con noi il professor Pietro Ichino. Io ringrazio il senatore Ichino. Buongiorno Ichino. Buongiorno. Io ho ricordato all'inizio di trasmissione, diciamo, il duplice ordine di obiezioni che in sede tecnica sono state negli anni avanzate anche da lei, oppure da studiose come Daniela Del Boca, da molti colleghi economisti del gruppo lavoce.info. Cioè, si dice il quoziente familiare, se uno poi va a vedere gli effetti concreti dove viene attuato, come in Francia, ottiene due conseguenze un pochino problematiche. Cioè, la prima è che scoraggerebbe l'occupazione femminile, e la seconda è che naturalmente, attuando un regime di cumulo tra i redditi, nel caso di più redditi all'interno della famiglia, incoraggerebbe più naturalmente le famiglie con elevato reddito di un percettore, che si troverebbe quindi a fare un fenomeno di splitting con un abbassamento molto più elevato dell'accettabile. È capitato a Visco, che ricordavo anni fa aver sostenuto questo argomento, molto più basso dell'accettabile, poi dell'aliquota al quale verrebbe sottoposto. Queste le due obiezioni. Io distinguerei due aspetti del problema e due misure di struttura dell'onere fiscale corrispondenti. Uno è il problema del cumulo tra i redditi dei due coniugi, l'altro è il problema del come tener conto del numero dei figli, perché noi possiamo avere sistemi fiscali che praticano o non praticano il cumulo del reddito dei coniugi, e sistemi fiscali che premiano, aiutano, sostengono le famiglie con molti figli, sia nell'un caso sia nell'altro. Allora, diciamo, io vedo come un aspetto molto positivo del progetto del governo. La interrompo prima del giudizio per far capire a chi è a casa. Cioè, si può fare senza cumulo, rimanendo come base contributiva individuale e aumentando le deduzioni o detrazioni. Esattamente, ecco. Grazie dell'aiuto nella spiegazione. Ora, mentre l'intervento volto a ridurre l'imposta in misura maggiore per le famiglie con figli numerosi è una cosa necessaria, e io aggiungerei anche che bisogna sviluppare il welfare state, insomma l'appoggio, l'aiuto concreto nei confronti delle famiglie, anche la famiglia con un figlio solo, con due figli. Se noi guardiamo quel che accade nei paesi del nord Europa, vediamo un mobilitarsi dell'intera società, della collettività locale, della contea e così via, per sostenere la madre, il padre, la famiglia in mille modi, anche non di carattere fiscale, ma proprio in termini di servizi. Certo. Questo è fondamentale. Diverso il discorso sul cumulo dei redditi, perché obiettivamente per questo aspetto, solo per questo aspetto, però il progetto del governo ha un indubitabile effetto di disincentivo al lavoro del secondo coniuge. manager, diciamo, di quello che arriva per secondo a scegliere se lavorare o no, che in genere è la donna. Ora, questo corrisponde a una visione della famiglia che certo trova una risonanza nella formulazione dell'articolo 37 della Costituzione, che in effetti è un articolo formulato in modo un po' culturalmente un po' vecchio, perché sostanzialmente sancisce che la cura familiare compete essenzialmente alla donna, ma tutte le ricerche sociologiche ed economiche disponibili mostrano invece che quanto sia importante per il benessere della famiglia, per la sua sicurezza, il fatto che entrambi i coniugi abbiano un lavoro professionale, anche perché il lavoro della donna, il lavoro regolare professionale della donna è molto più valorizzato di quanto non sia il lavoro casalingo, e quindi la famiglia con due redditi è una famiglia più sicura, e i dati ci dicono che le famiglie con due redditi, dove nei paesi nei quali è più alto il tasso di occupazione femminile, quindi è più frequente il nucleo familiare con i due coniugi che lavorano, sono anche i paesi con tasso di natalità più alto, quindi non è vero che il lavoro della donna è di per sé di ostacolo alla natalità. Chiarissimo, io ringrazio Pietro Chino. Ricordo che su questo tema ci fu pochi anni fa, fu un dibattito che animò la comunità dei non economisti qualche anni fa, Andrea Chino, se non mi ricordo male, che proprio per questo propose una tassazione diversificata per genere, dicendo: per aumentare il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro tassiamo diversamente le donne, meno gravemente, per incentivarle a lavorare di più. Professor Campigli, che cosa possiamo dire in termini concreti a queste obiezioni? Come ribatterebbe? Ma guardi, è l'evidenza di questa crisi che sta ribaltando questo quadro che ho appena delineato, perché in Francia esiste il quoziente familiare, è stato introdotto al 31 dicembre del 1945. Durante questa crisi la Francia è il paese che ha continuato a registrare un aumento dei consumi, perché questo meccanismo dà anche una maggiore stabilità, e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è rimasta più elevata e crescente. Questo non vuol dire certamente sottovalutare gli argomenti che prima sono stati proposti, significa semmai che la questione pure centrale della scelta del lavoro da parte della donna, scelta deve essere, non deve essere una necessità che rende anche tutta la struttura familiare squilibrata in un verso o nell'altro. Aggiungo che il quoziente familiare, non è vero che la questione delle detrazioni è una risposta. Una virtù centrale del quoziente familiare è la semplicità, e a mio parere la semplicità in democrazia, soprattutto quando si pagano le tasse, è una virtù di democrazia, nel senso che la famiglia in questo caso ha un'idea dell'ordine di grandezza delle imposte che poi andrà a pagare, perché qualora ciò non avvenga e quindi si passi attraverso sistemi di detrazione eccetera, tutto questo ricade nell'ambito della discrezionalità politica. E io proprio recentemente ho avuto modo di guardare alla serie storica delle detrazioni, per l'appunto, o delle deduzioni trasformate in detrazione a seconda dei ci vuole governi. Un sismografo, professore, cioè questa è materia mia, ci vuole un sismografo, cioè l'intensità e la variazione temporale di queste norme sono tali che neanche gli addetti ai lavori sono in grado spesso nell'arco di uno stesso anno di commisurarla. Purtroppo è così, e questo rende in effetti molto opaco il sistema, molto poco trasparente, e non crediamo che le famiglie italiane siano in grado di pianificare chiare in base a conti davvero alla mano di come funziona il sistema concreto delle detrazioni e deduzioni, o che sappiano fare un computo dei criteri ISEE attraverso i quali poi si ha l'accesso in molti casi ai servizi pubblici oppure meno. Ricordo che anche la social card è stata fatta sull'ISEE. Sono tutte robe per pochissimi addetti ai lavori che impazziscono a capire, perché il nostro ordinamento fiscale, la mia opinione è che in violazione palese delle garanzie costituzionali a noi poveri contribuenti. Stiamo parlando oggi di quoziente familiare, parlando del caso concreto di Parma. Sentiamo che ne pensate voi. Cominciamo da Alberto. Alberto da Milano, prego. Sì, buongiorno. Faccio solo un caso pratico per capire cosa stiamo parlando. Io sono uno di quei ricchi di cui parlava Visco, che manda la moglie, dovrebbe mandare la moglie a fare ginnastica, ma io guadagno un lordo superiore ai 100.000 euro all'anno, ho 5 figli. La moglie non può andare a fare ginnastica perché è un pochino occupata, e volevo solo fare l'esempio che chiunque guadagni come me ma non ha figli paga le stesse mie tasse. Fate conto che noi mangiamo circa 28 kg di pasta al mese, 54 litri di latte, e vi assicuro che un figlio ha un costo e noi siamo al pelo giusti giusti alla fine del mese per poter. Quindi c'è una somma ingiustizia per le tasse che io pago rispetto a chi di figli non ne ha. Questo era l'esempio, grazie. Grazie Alberto. Donatella da Milano, prego. Buongiorno, io ho sentito la trasmissione all'inizio, poi adesso ho spento la radio perché sono scesa dalla macchina. Complimenti a quella mamma che ha fatto 5 figli, perché sicuramente è molto coraggiosa e in gamba. Io volevo dire, su quoziente familiare non mi pronuncio perché non ho la competenza, però mi sembra che si parli ancora troppo, e il signore di prima conferma che troppe parole. Il ministro Giovanardi alla famiglia parla troppo, e cosa fa in concreto? Io conosco tantissime mamme che farebbero, e donne che farebbero un figlio, due figli e anche tre, ma non se lo possono permettere perché è un lusso. Al di là dei meccanismi matematici, aritmetici, sistemistici, eccetera, vogliamo fare qualcosa di concreto adesso per queste famiglie che hanno bisogno di essere sostenute? Non c'è una politica per la famiglia, si fanno gli incentivi alla Fiat e non si incentivano chi i figli li vuole fare. Grazie, grazie Donatella, è molto chiaro, sì. È molto chiaro, e trovo che trovo anche sommamente ingiusto quello che io adesso mi devo accingere giornalisticamente a fare per dare un senso più ficcante al suo intervento, e cioè chiedere a Carlo Giovanardi una cosa che non sta nella competenza di Carlo Giovanardi. Perché parliamoci chiaramente, il terrore di volta in volta che si parla di questi argomenti, poiché abbiamo il debito pubblico che abbiamo sulle spalle, è se mettiamo mano a riforme di questa portata, che non è detto abbiano effetti sconvolgenti, minor gettito nel medio lungo periodo, ma può essere che nel breve ce l'abbiano, col debito pubblico che abbiamo, la crisi che c'è, le aste, il titolo di debito pubblico, come si fa? E allora è poi mister Tremonti che dice a Giovanardi, che va lì con la lettera del Presidente del Consiglio che ci ha appena citato, che ha di nuovo ricevuto per sollecitare l'attuazione del quoziente familiare, Tremonti dice sì caro Carlo, però qui per il momento non lo possiamo fare. Però di emergenza in emergenza non si prendono mai le riforme di fondo in questo paese. Giovanardi, non è un po' così? No, ma guardi, premesso che credo che si scontrino due visioni del mondo. Una che è quella dirigistica, statalistica, che dice tu paghi tutte le tasse e poi ci penso io Stato eventualmente a ridartele nelle condizioni di bisogno, con gli assegni familiari, eccetera, eccetera. E l'altra che noi sosteniamo, che è quella invece di lasciare fin dall'inizio nella disponibilità delle famiglie, specialmente quelle numerose, queste risorse. Sarà poi ogni singola famiglia a stabilire se la madre lavora, non lavora, se si piglia il part time, se interrompe il rapporto lavorativo per qualche anno mentre c'è 5 figli piccoli. Si lascia la libertà e alle risorse di ogni famiglia di muoversi in questa direzione. Quindi questa è una questione di scelta di fondo. Per il resto io sento la Marcegaglia dire gli industriali aiutate le imprese, se no il sistema economico italiano va a fondo. Sento la necessità da parte dei sindacati della cassa integrazione, 1.200.000.000 di ore, perché se no il lavoratore che ha una famiglia rimane a casa, non sa cosa dargli da mangiare. So che in Abruzzo bisogna mettere i terremotati all'interno delle case perché arriva l'inverno. Dopodiché è facile dire come la signora, ma il governo cosa fa? Perché non tira fuori le risorse dopo avergli chiesto di tirare fuori le risorse, naturalmente, per tutto quello che ho detto prima, e in più per la scuola, la ricerca, gli scioperi degli studenti. Abbiamo 1.200.000 insegnanti all'anno, sì, in carica all'anno in Italia, ma quando si dice di razionalizzare, di risparmiare, ci sono le proteste popolari. Allora, il realismo di Tremonti è che deve fare quadrare i conti, ma il che non vuol dire che non si faccia. Per esempio, adesso decolla il prestito di 5.000 euro garantito dallo Stato a tassi contenuti, restituibili in 5 anni per chiunque ha un figlio. Per chiunque ha un figlio, è una misura universalistica. Poi qualcuno mi dirà, ma che se ne fa una famiglia ricca di 5.000 euro? Non andrà in banca a prenderli. Ma chi invece il figlio ce l'ha e la banca il prestito non glielo dà e finisce in mano agli usurai, quello gli cambia la vita. Quello gli cambia. 5.000 euro quando c'ha un figlio per far fronte alle spese, gli fa comodo, soprattutto se è garantito dallo Stato e quindi le banche glielo possono concedere. Allora, i tempi di conciliazione, ci stiamo lavorando proprio per costruire politica, cominciare da casini nido, cioè cominciare da aumentare un'offerta di servizi e strutture che consentono alla madre di continuare a lavorare e di risolvere il suo problema di affidamento del figlio. In un paese però che la Banca d'Italia dice, dove metà delle famiglie vorrebbero avere l'asilo nido, l'altra metà non ne vuole sapere, perché vuole tenere i bambini in casa o con la nonna o con una donna di fiducia, oppure con iniziative come quella che diceva il sindaco di Parma, che in Trentino sono già evolute, di queste Tagesmatter, dove si tiene il bambino all'interno di un, diciamo, un piccolo asilo familiare gestito magari dal condominio. Ecco, quindi di politiche se ne fanno tante. Poi, certo, se in questo momento ci fossero le risorse rispetto a tutte le emergenze, noi abbiamo un 5 erotti di PIL in meno e uno sfondamento del debito pubblico dovuto alla crisi, chi è che spiega a Tremonti o in grado di dirgli oggi fai questo tipo di riforma? No, l'impegno politico c'è. Chiarissimo. Siamo partiti da Parma, torniamo da Parma con il sindaco, quindi chiudiamo direttamente con lui. Sindaco, nell'adozione del criterio che avete fatto a Parma, comunque avete tenuto conto anche di queste obiezioni, perché l'avete tarato poi con tecnici universitari e così via, cioè si può fare cominciando dal basso, che poi il livello che direttamente deve dare i servizi, mi pare, no? Ma io dico assolutamente di sì. È chiaro, non è stato un percorso veloce, perché noi abbiamo attentamente studiato la materia utilizzando anche sia esperti delle associazioni delle famiglie numerose sia esperti dell'Università di Parma. Alla fine siamo riusciti a costruire un quoziente che secondo noi può essere sperimentale, potrà essere esteso alle altre città. Tra l'altro noi abbiamo anche costituito un network di famiglie europeo. Recentemente a Parma sono venuti amministratori sindaci da diverse città europee, in modo poi da cercare di socializzare questo nostro percorso. E io ritorno a dire quello che dicevo all'inizio, cioè crediamo che questo sia importante da tanti punti di vista. Primo, quello di poter erogare e consentire alla famiglia di erogare essa stessa dei servizi, non solamente nei confronti dei ragazzi, ma anche nei confronti degli anziani, perché il nostro sistema tiene conto anche dei carichi di cura che la famiglia ha magari nei confronti degli anziani. E poi anche un po' per rispondere a quello che si diceva prima, io credo che ci sia sul fatto che la donna necessariamente deve andare a lavorare. Allora, io non vedo questi due aspetti intanto in contraddizione. Il lavoro femminile c'è, va incentivato, però stiamo anche attenti a non esagerare, perché esiste anche un disagio, io lo vedo a livello cittadino, esiste oggi un disagio giovanile molto marcato di giovani, soprattutto nella fascia dell'adolescenza, perché la famiglia, che dovrebbe essere la prima agenzia educativa, oggi manca totalmente. Non funziona più come centro integratore di lavoro. Abbiamo il bullismo, abbiamo giovani che sono in presa alla droga. E il pomeriggio, soprattutto nella fascia pomeridiana, questi giovani non si sa con chi sono, con chi stanno. Io devo interromperla, signor sindaco, la ringrazio, soprattutto dell'esempio fattivo di cominciare dal basso, e dal basso che si può, è la filosofia generale nella versione di Oscar. Ringrazio Carlo Giovanardi e il professor Ichino e il professor Campiglio che sono intervenuti. Ringrazio anche regia Paolo Corleoni e Alessandro Marco Turri, come sempre prezioso in redazione. All'appuntamento a domani, la linea Giornale Radio. Vi ha presentato 9 in punto.